Questo è un momento complesso. Nel paese c'è anche molta stanchezza. È una pandemia che ci sta sfidando duramente, provoca rabbia, frustrazione, sta anche creando disuguaglianze nuove che si aggiungono a quelle già esistenti. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa, e mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari, ai gestori di palestre, di piscine, penso agli artisti, ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite. Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell'intero governo. Sono già pronti gli indennizi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. E devo ringraziare in particolare, oltre che tutti i ministri, tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi, ho incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli, perché nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure, loro ragionavano già sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto, lavorando con le medesime associazioni di categoria. E io stesso dedicherò questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati, con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete, è un sistema che abbiamo già usato, tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace, e in particolare quindi arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre, verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport, e offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare, che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti. In questo modo chi sarà costretto a sospendere o a rallentare le proprie attività a causa delle nuove norme potrà giovarsi di un sostegno economico che gli permetterà di affrontare le prossime settimane. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sempre a dimostrare la propria coesione e la propria forza. Se questo mese di novembre rispetteremo tutti queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre, e ci auguriamo le festività natalizie, con maggiore serenità. Ricordo anche che la Commissione europea ha stipulato contratti, vari contratti, che prevedono già a dicembre l'arrivo delle prime dosi del vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati, potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti al pericolo. L'Italia è un grande paese, l'ha dimostrato ancora una volta la scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso. Un paese che è grande una volta, è grande, deve essere grande sempre.